America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Una voce poco qui nel cuore. Maria Teresa Meloni, una fiorentina che è venuta a New York. Devo dire, qualche tempo che non facciamo puntate di solo andata, un biglietto di solo andata, cioè italiani che a un certo punto della loro vita, giovani di mezza età o addirittura anche un po' anzianotti, decidono di mollare tutto e venire in America alla ricerca di un qualche sogno. Abbiamo parlato con James Bradburn e abbiamo visto la storia di molti americani che sono andati a Firenze alla ricerca dell'ispirazione rinascimentale, e Maria Teresa Meloni ha fatto esattamente l'opposto. Pensate, fa dei ritratti rinascimentali in America e un po' in giro per il mondo, e ha deciso di venire a vivere in America. E con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Mario. Allora Maria Teresa, dunque tu a un certo punto hai deciso di mollare tutto in Italia e di venire qui, di venire in America. Tu ti qualifichi come un biglietto di sola andata? Io mi qualifico come un biglietto di sola andata. Ecco, e dici perché? Quando è che hai preso questa decisione? Come è capitato? Avevo 18 anni e volevo fare l'artista, e mi sono ritrovata a essere donna e a essere a Firenze, e quindi ho subito capito che dovevo venire via. Perché c'era, cosa c'era, una mentalità un po' chiusa? La mentalità a Firenze non è tanto aperta. Firenze per l'arte secondo me è una città morta, è una città, purtroppo mi rattrista dirlo, è una città stagnante. Io ho anche provato a tornare tipo 3 anni fa, a starci 6 mesi, ma non ha funzionato. Ma hai studiato a Firenze però, ti sei preparata in Italia, tu fai parte diciamo di questo comparto di cervelli in fuga che in Italia, faccio parte dei cervelli in fuga, e che in Italia trovano straordinarie risorse dal punto di vista dell'education, formativo, dell'educazione, formativo, però pesci in faccia e stracci in viso, come si dice. Ecco, ma perché dici così? Perché poi qualche italiano insomma resta anche da noi e riesce anche a fare carriera, anche delle ragazze che magari vogliono fare le artiste. Purtroppo il tipo di arte che faccio io è anacronistica, quindi già è uno svantaggio, perché la ritrattistica non è l'arte contemporanea. Certo. È proprio una cosa anacronistica del passato, dove c'è il mecenate, c'è l'artista che viene accolto nella corte del mecenate e vive e fiorisce, diciamo, in questa tipologia. Ecco, sentiamo James Bradburn. La produzione dell'arte è sempre contemporanea, e soltanto viviamo tutti il passaggio di tempo. Però le artiste contemporanee adesso fanno le stesse cose, loro assimilano, capiscono e rappresentano il loro mondo in una certa maniera. Ecco, qui insomma Bradburn dice che tutti gli artisti un po' sono contemporanei. Tu ti ispiri al passato, ma vivi nel nostro tempo, quindi bene o male hai un'espressione artistica che comunque, quantomeno nelle persone, quantomeno nella rappresentazione di coloro di cui tu poi fai i ritratti, appartengono al nostro tempo. Quindi tu ti consideri del nostro tempo o ti rifugi più nel passato? Nel passato, assolutamente. E quindi io, ha ragione lui a dire che gli artisti hanno la loro visione contemporanea. Poi bisogna vedere qual è questa visione contemporanea, perché se te sei un personaggio come me che ha dei valori e un credo che è lo stesso di Pico della Mirandola e lo stesso di Lorenzo de' Medici e di Michelangelo Buonarroti, è chiaro che la mia contemporaneità è nel passato, purtroppo. Ecco, tu ci hai parlato di mecenati, quindi tu cosa fai? Vai fisicamente nelle case di grandi famiglie americane o internazionali e fai questi ritratti? Ci vivo per 3 giorni, 4 giorni, li seguo e addirittura disegno gli abiti che dovranno indossare per questo ritratto. E poi una volta che avete fatto questo, poi torni per fare il ritratto, oppure in questi 3 giorni fai il ritratto? No, io in questi 3 giorni acquisisco la nozione di quella persona. Chi è questa persona? Da dove viene? Cosa? Qual è la vera essenza di questa persona? Dov'è il divino di questa persona? E come faccio? Mi pongo come un bicchiere d'acqua. Queste persone di solito sono, soprattutto qui in America, delle persone che appartengono a una certa elite. Sono le grandi famiglie americane: Mellon, Johnson & Johnson, Soros. E E noi abbiamo un'intenzione insieme, è quella di rappresentarli su tela, o io più che altro lavoro su tavola, non per oggi, per domani. Per domani, quindi deve essere una cosa molto accurata, non il loro vestito, non il loro contorno, è veramente, io mi concentro sulla loro anima. Ecco, e questo dal punto di vista tecnico, facciamo un passo indietro, dove hai studiato? Allora, io ho studiato agli Uffizi, da bambina, uh-huh. Cioè continuando ad andare avanti e indietro per le gallerie, però devo dire che il colpo di grazia l'ho avuto a Parigi, al Louvre, quando avevo 12 anni, che sono rimasta scioccata letteralmente davanti al Georges de Latour, che è nello studio del falegname, si intitola il quadro, nello studio di San Giuseppe, c'è il Gesù nello studio di San Giuseppe, dove c'è una luce data da delle candele fantastica, e tante volte tanti mecenati anche in Europa, guardando le mie immagini, mi hanno detto: ma lo conosci Georges de Latour? Perché ci sembra di rivedere. Io, ce l'ho nel cuore Georges de Latour, vorrei dire Leonardo, vorrei dire Michelangelo, invece ovviamente Michelangelo, Leonardo, Pico della Mirandola, Lorenzo, tutti i nomi del periodo. Ma hai avuto un momento in cui hai sentito il bisogno magari di andare in qualche accademia, di seguire qualche corso, insomma, sì, per perfezionare questa tua cosa? Certo, avevo 21 anni, avevo appena finito il BA per illustrazione e volevo assolutamente entrare alla Royal Academy of Art, ma esattamente in quel momento ho avuto il contratto per il mio primo libro con la HarperCollins. HarperCollins, scusate, parentesi, perché il nostro ufficio, il nostro studio dove siamo adesso è proprio nel palazzo della HarperCollins qui a New York, quindi ti senti a casa? Mi sento a casa perché a 22 anni io sono venuta qua con il mio libro. Ecco, allora, poi hai deciso di restare. Perché sei rimasta a New York? Sono rimasta a New York perché New York è una di queste città che quando ci arrivi non vuoi mai più tornare indietro. Maria Teresa, ieri abbiamo parlato di americani che andavano a Firenze alla ricerca di questo fascino del Rinascimento. Ecco, cos'è che trovi in queste persone che oggi vogliono questi quadri rinascimentali? Perché? Qual è il legame con il Rinascimento? All'estero Firenze è vista come una gemma preziosa, e il Rinascimento e Firenze sono la stessa cosa. Firenze rappresenta il Rinascimento. Quindi gli stranieri, gli americani, gli inglesi hanno questo nesso con Firenze. Io il Rinascimento me lo porto dentro e sono una commodity perché io sono qui a New York. Senti, ci puoi dire cosa costa un tuo quadro su tavola rinascimentale? Sono 100.000 dollari per il ritratto, il disegno sono 25.000 e le fotografie 4.000. E sei prenotata fino al 2015. Hai già commissioni fino al 2015. Sì. Dunque, questo tuo biglietto di sola andata, in sostanza, alla ricerca dell'arte, ha pagato quantomeno. Ha pagato, a pagatone. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Pratero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La RCA Records è dovuta correre ai ripari dopo che il nuovo single di Pink, Blow Me, è stato diffuso su internet prima del previsto e quindi ha lanciato il brano con una settimana anticipo. The Pink, Blow Me, One Last Kiss. White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clenched jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, eyes on fire, and the burn from all the tears I've been crying. Go. I think I finally had enough. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!